Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti di nuovo in diretta con un'altra puntata di Focus Economia. Focus Economia sarà in onda anche domani, poi il 24 invece puntata speciale, poi dal 28 in poi, lo dico perché mi state scrivendo su questo, sarà in diretta nei giorni chiaramente feriali, con una durata però festiva di un'ora. I temi di questa giornata economico-finanziaria. Dunque, parleremo di molto di Italia oggi per due fronti. Uno è il fronte Recovery Plan, sta parlando in questi istanti il ministro Amendola e adesso vi darò alcune sintesi delle agenzie che stanno uscendo, perché il tema qui è anche molto politico, come sapete, perché si è aperta una verifica di governo proprio sul Recovery Plan, l'ha aperta Italia Viva, ma diciamo non era da sola nel giudicare sbagliato il metodo, oltre che la ripartizione dei soldi e la vaghezza, aggiungo io, degli interventi. Sta parlando, dicevo, il ministro Amendola, ma qui ci si registra un passo in avanti, perché uno dei ministri di Italia Viva nel governo, mi riferisco al ministro Bellanova, ha detto sostanzialmente è stata superata l'ostacolo così della task force, e quindi abbandonata l'idea inizialmente presentata di una task force fatta da 90 consulenti con 6 super manager, e quindi già questo è un passo in avanti, lo dice anche il PD, fonti del PD, bene lo sblocco per quello che riguarda la discussione sul recovery, la task force è sparita, appunto, conferma la Bellanova, e poi sulla sanità ci sono anche dichiarazioni del Presidente del Consiglio che ha detto attenzione, le risorse della sanità non sono solo 9 miliardi, perché alcune sono trasversali, però la Bellanova ha detto attenzione, perché se ci sono solo 9 miliardi sulla sanità non si riflette sulla possibilità di mettere in campo i 36 miliardi del MES, e anche l'Euro ritiene che serve un riequilibrio sulle risorse sanitarie. La delegazione di Italia Viva ha preso qualche giorno di tempo, poi lunedì faranno pervenire un contributo di sintesi come le altre forze politiche, poi partiranno i tavoli di confronto. Il ministro Amendola, dicevo, sta parlando in questi istanti, e allora leggo assieme a voi le agenzie. Da un lato dice la governance, il ministro Amendola è il referente dentro il governo in questo momento alla stesura del recovery plan. La governance è nelle linee guida della Commissione Europea. L'Unione Europea ci chiede, a pagina 33, una struttura che vada a monitorare i progetti del recovery plan. Non sostituirà i ministeri, come abbiamo detto, delineeremo queste norme come abbiamo sempre fatto in questi due giorni. Però Amendola dice attenzione, perché una struttura di governo e di controllo, mettiamola così, dei piani ce lo chiede l'Europa, a pagina 33, che ogni paese se ne doti. E infatti il tema non è questo, però aggiungo io, la Francia se ne è dotata in maniera molto più snella di quello che era il progetto italiano. E poi sempre Amendola ha aggiunto, sono stati due giorni di lavoro molto intenso, bisogna accelerare, dopo la legge di bilancio inizieremo gli incontri al Ministero dell'Economia e Finanze, poi il Consiglio dei Ministri invierà la proposta al Parlamento per discutere anche con gli enti locali e gli attori sociali, si lavorerà a tutti gli aspetti nel solco delle linee guida europee, avevamo 600 progetti, ora ne abbiamo 52 e saranno razionalizzati e resi coerenti, quindi razionalizzati, come capisco io, vuol dire che saranno ulteriormente ridotti. Di questo parleremo nella seconda ora del programma, e questo è il fronte, diciamo, più accordo politico o tentativo di accordo politico sul recovery. Per quello che riguarda invece il fronte più di cronaca di attualità, c'è invece la manovra, con soprattutto il mille proroghe. Dentro la manovra c'è tanto, dentro la legge di bilancio c'è un testo che è lievitato a 1150 commi, dopo l'approvazione di 254 emendamenti. E diciamola così, spero che non sia il modello che si è visto sulla manovra quello che verrà utilizzato per il recovery plan, perché gli interventi devono essere precisi, articolati, nel senso che non basta dire vogliamo investire nella digitalizzazione del paese. Articolati vuol dire che entrino nel dettaglio di come si raggiungono questi obiettivi, ma devono essere limitati. Perché lo dico? Perché i nuovi bonus e incentivi presenti nella legge di bilancio valgono complessivamente quasi 5 miliardi su una manovra che ne vale 38, di cui 8 miliardi per la riforma fiscale, quindi comprende l'assegno unico e la stretta sugli evasori, 13 miliardi e mezzo la fiscalità di vantaggio per il Sud, 4 miliardi per il sistema sanitario. Però, dicevo, e nel mille proroghe ci sono tanti elementi, dai Covid hotel ai concorsi e l'assunzione della pubblica amministrazione, dovrebbe arrivare appunto domani in Consiglio dei Ministri il mille proroghe, che farà slittare al 31 dicembre del 2021 numerose scadenze, più tempo per gli esami di guida per la patente e i pedaggi autostradali congelati fino a luglio. Però la cosa che è piaciuta meno è vedere che vi sono state tanti rivoli di spesa, ne abbiamo parlato anche ieri, tanti rivoli di spesa, anche di spese piccolissime. Ora, lì il sospetto è sempre che si facciano investimenti e si spendano dei soldi non per un progetto complessivo, ma per accontentare così le vari riferimenti elettorali dei partiti. Ecco perché dico, spero che questo non sia il modello per il recovery plan. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Parleremo anche dei piani veri e propri infrastrutturali, perché nelle opere del recovery ce ne sono 19 nel capitolo infrastrutture e valgono in tutto 27 miliardi, comprendono interventi già previsti in corso per 22 miliardi e opere con progetti da realizzare o da rivedere per 5 miliardi e mezzo. Il conto l'ha fatto il centro studi dell'ANCE, dell'Associazione Nazionale dei Costruttori dell'Edilizia. 18 miliardi sono risorse sostitutive di fondi nazionali già disponibili, solo 9 miliardi saranno nuove risorse fresche. Perché questo? Perché sappiamo che una parte del recovery, circa 80 miliardi, serviranno a non aumentare il debito, quindi non sono risorse fresche, semplicemente come nel caso delle opere infrastrutturali vanno a sostituire fondi nazionali previsti nei tendenziali di bilancio. Questo che vuol dire che non hai stanziato dei soldi in più, stai spostando, diciamo, la fonte di questi soldi dal bilancio nazionale a quello invece europeo. E poi c'è il settore costruzioni, che non è coinvolto solo nel fronte infrastrutture in senso stretto, ma tutta la parte, pensate per esempio alla rivoluzione verde e transizione ecologica, vale da sola 74 miliardi e quattro voci in questa parte impattano sull'edilizia. Ne parleremo più avanti, dicevo, 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Partiamo come sempre anche dalle borse, che dopo i cali di ieri oggi stanno recuperando quasi tutto l'effetto, diciamo così, l'avevamo già detto ieri in diretta, è un effetto anche pretestuoso quello la variante inglese, si è andati a vendere titoli che molto comunque su listini che molto erano cresciuti, più 1,93% adesso Milano, Parigi più 1,50%, Francoforte più 1,30%, Londra più 0,50%, Dow Jones meno 0,23%. Exor molto bene, più 5,50, Azimuth più 3,90, ST Microelectronics più 3,80, Banco BPM più 3%, Nexi più 2,90, il 2,80 lo guadagna Telecom, il 2,5 Fiat, Chrysler, ma anche Ferrari e Atlantia, il 2,40 rialzo di Italgas e di Mediobanca, il 2,30 quello di Terna, Enel e Biper. Negativa oggi, una classica, diciamo, turnazione di Assorin, che ieri invece era uno dei pochi titoli positivi, meno 0,90%. Dunque, i dati sull'economia americana: è cresciuta nel terzo trimestre del 33%, leggermente sopra le attese degli analisti, ma di poco, era 33,1%. C'è una ripresa sostenuta, anche qui attenzione, perché uno dice: cavolo, 33% rispetto a noi che abbiamo fatto più 16. Sì, ma anche il tonfo era stato più forte del nostro, per come viene calcolato il PIL, perché avevano perso il 31% nel secondo trimestre. Quindi, insomma, è anche, diciamo così, che anche negli Stati Uniti il terzo trimestre ha dimostrato un dinamismo molto molto forte nell'andamento del PIL. Da noi, ricorderete, più 16%, il rialzo più forte mai registrato da quando lo misuriamo. Chiaro che si veniva anche da un crollo straordinario. Però nel frattempo le vendite di case esistenti calano del 2,5% negli Stati Uniti, un dato in linea con le attese. In Europa c'è una riunione straordinaria con gli stati membri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Europea per valutare la strategia da intraprendere di fronte alla nuova variante di Covid esplosa in Gran Bretagna. Via libera nel frattempo dell'Agenzia Italiana del Farmaco all'emissione in commercio del vaccino anti-Covid delle aziende Pfizer e BioNTech. Nel frattempo Pfizer e Moderna, che è l'altro vaccino che è pronto, stanno effettuando dei test per verificare se i propri candidati vaccini siano efficaci anche contro la variante inglese del Covid. Il fondatore di BioNTech, però attenzione, qui insomma, come chiedere all'oste se è buono, ha detto: è molto probabile che il vaccino funzioni anche sulla mutazione. Allora, l'Unione Europea, la Commissione Europea nel frattempo ha chiesto ai paesi di terminare al più presto i bandi ai voli e ai treni per la Gran Bretagna, vista la necessità di assicurare i viaggi essenziali ed evitare interruzioni della catena di approvvigionamento. Quindi anche il governo italiano ha deciso, sostanzialmente potranno rientrare in Italia i cittadini residenti o cittadini in condizioni di criticità e urgenza, cittadini residenti in Italia, ma le misure saranno ancora più strette, quindi il tampone andrà fatto prima e dopo essere partiti, quindi alla partenza e poi all'arrivo, e comunque sarà obbligatorio fare una quarantena di 14 giorni una volta atterrati in Italia. Anche la Francia, che si è detta disponibile a una parziale riapertura dei tir, sapete che il problema in Gran Bretagna si sta verificando per il blocco dei tir alla Manica, ha detto stanno continuando infatti a aumentare gli incolonnamenti. Il governo britannico sta lavorando a un piano per sottoporre tutti i conducenti dei tir a dei test per il Covid, però il problema che hanno gli autisti è proprio l'ipotesi di quarantena al loro rientro, perché la Francia introdurrà l'obbligo di un test per tutti i francesi che intendono rientrare in patria dal Regno Unito, e vale sia per i francesi residenti in Gran Bretagna sia per quelli che hanno semplicemente fatto un viaggio in Gran Bretagna. Anche i britannici residenti in Francia in modo permanente potranno rientrare con l'obbligo di test. La misura riguarderebbe anche i lavoratori, ma esclusi gli autotrasportatori. Per le altre persone, in particolare per i cittadini britannici che non hanno residenza in Francia, le frontiere restano al momento chiuse. Ieri ci veniva spiegato che il dubbio di alcuni autotrasportatori non è tanto sul test, è sulla quarantena, perché adesso io voglio capire, anche quando leggeremo con maggiore dettaglio la decisione del governo, se questa quarantena debba valere anche per l'autotrasportatore. Cioè, a rigor di logica, se devi fare tampone prima e tampone dopo, a rigor di logica dovrebbe valere anche per l'autotrasportatore, però per esempio la Francia lo ha escluso come test. Allora, adesso sono arrivati i dati di oggi, li leggo assieme a voi. 13.000 casi, 13.300 casi, è invece salito di 628 il numero delle vittime in un giorno. Siamo quasi vicini ai 70.000, 69.842. Aspetto ancora i dati clinici, perché in questo momento non ci sono, ci sono solo quelli degli dei nuovi positivi e delle vittime. Allora, secondo l'Istat, dopo il famoso forte aumento nel terzo trimestre nell'area euro, l'attività economica è prevista diminuire nel quarto trimestre come conseguenza della nuova emergenza Covid. In realtà è un rapporto realizzato da Istat, IFO, che è l'Istat francese, COF, si stima complessivamente un calo del 7,3% nell'area euro per tutto il 2020. Andiamo all'Italia, le richieste al fondo di garanzia continuano a salire, superano i 123 miliardi di euro, hanno superato anche il 1,5 milioni di domande, 1,547,000 domande, di cui 1,038,000 domande fino ai 30.000 euro, che valgono 20 miliardi complessivamente. Gli altri 100 sono invece relativi agli importi più alti. Poi ci sono anche quasi 200.000 domande per garanzie sulle moratorie per quasi 4 miliardi. Allora, invece veniamo al mondo del commercio. Ieri abbiamo avuto ospite anche il presidente degli artigiani italiani. Invece qui parliamo del mondo dei bar, degli pubblici esercizi. A partire da domani, per tutta la durata delle festività, decine di migliaia di locali in tutta Italia esporranno un cartello di protesta all'indirizzo del governo per dire basta, questo dirà il cartello, al caos normativo degli ultimi mesi. L'hanno lanciata FIPE e FIEPET. Al governo i pubblici esercizi italiani chiedono tra l'altro anche l'inserimento nel piano, cioè chiedono di essere inseriti nel piano nazionale di ripresa e resilienza e chiarezza sui tempi di riapertura gennaio. L'iniziativa è stata commentata dal presidente della FIPE Enrico Stoppani al microfono della nostra Anna Marina. Di esporre sulle vetrine che saranno costrette a chiudere dal giorno successivo un avviso in cui enunciamo quello che è un basta del settore rispetto a questo caos normativo con 22 DPCM, 36 decreti leggi, 160 giorni di chiusura di attività, con una differenza poi impressionante tra quanto annunciato e quanto attuato, insomma sensibilizzando l'opinione pubblica e sperando insomma che il governo insomma su questi aspetti, oltre che gli annunci, entri anche nel merito e nella sostanza dei provvedimenti di cui il settore ha bisogno. Quanto avete perso finora e quanto avreste bisogno come investimento per il rilancio? Le perdite del nostro settore a fine anno sono oltre i 33 miliardi di euro, a fronte di un settore che fatturava normalmente 86 miliardi, per cui insomma oltre un terzo del fatturato. Di fronte a queste perdite, evidentemente i ristori che sono stati inseriti nei vari DPCM insomma sono assolutamente inadeguati e non proporzionati agli ingenti danni che stiamo subendo. Se poi aggiungiamo gli altri temi collegati ai temi della liquidità, dell'indebitamento, delle moratorie di natura fiscale, questo è un settore che ha bisogno evidentemente di ben altri provvedimenti se ritenuto importante per quelle che sono le filiere agroalimentari e la filiera turistica di questo paese. Allora, dunque, invece sul ponte di Genova, qui usciamo dalla cronaca, diciamo, del Covid, dell'emergenza Covid. Allora, è pesantissima l'accusa della perizia nei confronti di Autostrade per l'Italia, di chi la gestiva, perché la causa scatenante del crollo del ponte Morandi è il fenomeno, leggo testualmente, di corrosione a cui è stata soggetta la parte superiore del tirante sul lato Genova della Pila 9. Lo scrivono i periti del GIP. Oltre alla corrosione a determinare il crollo sono stati anche i controlli e le manutenzioni che, se fossero stati eseguiti correttamente, con elevata probabilità avrebbero impedito il verificarsi dell'evento. Non sono stati individuati fattori indipendenti dallo stato di manutenzione e conservazione del ponte che possono avere concorso a determinare il crollo, quindi non c'è stato nessun fattore esterno. Era dal 1993 che non avvenivano interventi di manutenzione e quindi interventi che potessero arrestare il processo di degrado in atto e o la riparazione dei difetti presenti nelle estremità dei tiranti. Ora, insomma, sintetizzando, il ponte è crollato perché non c'è stata manutenzione. Aggiungo io, la manutenzione non c'è stata perché bisognava risparmiare il più possibile per portare i soldi agli azionisti di Atlantia, Benetton inclusi, come da intercettazioni pubblicate. È colpa di tutti i governi che si sono succeduti non aver verificato e non aver chiesto conto del perché, a fronte degli aumenti dei pedaggi, erano molto molto più bassi gli aumenti degli investimenti. Io ricordo che nel contratto, diciamo, di concessione era chiarito molto bene che al di là di una parte di remunerazione, tu potevi andare ad applicare l'aumento dei pedaggi autostradali superiori all'inflazione se li giustificavi con gli investimenti previsti. A parte il fatto che la prossima volta, almeno spero che prima fai gli investimenti o in contemporanea e poi aumenti i pedaggi o in contemporaneamente i pedaggi. Invece qui venivano aumentati sulla base di investimenti programmati che poi non c'erano, compresa la manutenzione. Ora lo dico perché adesso non mi voglio certo sostituire alla magistratura, ma la perizia è abbastanza inequivocabile, tant'è che oggi il procuratore di Genova Francesco Cozzi dice: la perizia è un caposaldo dell'inchiesta, questa è una prova, non è un'ipotesi della procura. Il crollo del ponte non è un fatto venuto così, ma rivelatore di un sistema complessivo, e ora si tratta di collegare tutte le risultanze delle perizie con i singoli comportamenti umani. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo sul meteo, pubblicità, e poi partiamo con la legge di bilancio, mille proroghe e quant'altro per arrivare al recovery. Focus economia. Minuti. Allora, partiamo dalla manovra. Bisogna fare un po' di chiarezza, perché tutti parliamo del recovery, però non è la manovra. Anche quest'anno lo Stato italiano farà la legge di bilancio 2021. È pronto il maxi emendamento sulla manovra su cui il governo porrà la fiducia in aula. È un testo che è diventato di 1150 commi dopo l'approvazione di 254 emendamenti, due giorni di maratona, insomma, nel weekend di commissione bilancio. Dovrà essere ritoccato in alcuni punti, andrà brevemente rinviato in commissione per correggere alcune norme. Allora, c'è una carica di nuovi bonus e incentivi per un ammontare complessivo di risorse di 5 miliardi. La manovra vale 38 miliardi, 8 miliardi per la riforma fiscale, che comprende l'assegno unico e la stretta sugli evasori, 13 miliardi e mezzo destinati alla fiscalità di vantaggio per il Sud, quindi in primo luogo decontribuzione per i neoassunti, 4 miliardi per il sistema sanitario. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera Gianni. Buonasera a voi. Prima domanda di metodo: come si inserisce e integra questa manovra con invece il recovery, di cui parleremo dopo, non con te, ma insomma... Il recovery, o meglio un pezzo del recovery, finanzierà una parte delle misure che sono dentro la manovra, a partire dalla decontribuzione, appunto, dalla prosecuzione del taglio del 30% dei contributi per le imprese del Mezzogiorno, questa è la voce più rilevante, più una serie di altri interventi per l'occupazione, per le aree svantaggiate, eccetera, eccetera, che sono dentro la manovra. Ma il grosso, diciamo così, del recovery, quello per i nuovi investimenti pubblici e privati, eccetera, arriverà dopo, cioè una volta presentati i progetti, appunto, all'Europa. Qui noi nella manovra abbiamo finanziato un pezzettino della manovra con fondi europei, in particolare del programma REACT-EU, che stanno dentro al grande capitolo del recovery, ma sono, diciamo così, marginali sui 209 miliardi. Sì, però tu dici già una parte però sarà finanziata con i soldi del recovery. Noi abbiamo chiarito prima che, attenzione, non tutti i 209 miliardi saranno messi per nuovi investimenti, una parte più o meno 80 andranno a coprire investimenti già decisi, ma diciamo in questo modo per non toccare il debito pubblico. Esattamente, per non farlo alzare ulteriormente, perché utilizzare tutto il recovery per nuovi investimenti avrebbe, siccome larga parte sono prestiti, quindi fanno debito pubblico, avrebbe aumentato ulteriormente il peso del debito sul PIL. Oh, devo aprire e chiudere una parentesi velocissima, visto che abbiamo fatto ascoltare il presidente della FIPE Stoppani, del cartello che gli esercenti, bar e ristoranti appenderanno fuori. Molti mi stanno chiedendo, ma insomma, il reddito, com'è possibile? Il reddito medio dei ristoranti è 18.400 euro, dei bar 17.000 euro. Guardate, abbiamo fatto intere puntate anche con Gianni Trovati sulle dichiarazioni dei redditi, lì però bisogna stare attenti perché quello è al netto di un insieme di cose. Ma guardate, poi il punto è molto semplice. Intanto sono d'accordo con chi dice, guardate, che i ristori non possono essere considerati come un lordo, come un fatturato, perché i ristori sono netti e quindi se tu ricevi 5.000 euro di ristoro, per avere quella cifra netta avresti dovuto fatturare almeno 10.000 euro. Quindi è un po' diverso l'ammontare, dico 10.000 per farmi capire, perché ci avresti pagato le tasse, i costi, il personale, no, per cui dico 10.000, ma probabilmente molto di più quello che avresti dovuto fatturare. Però guardate che il tema delle dichiarazioni dei redditi questa volta viene bypassato, perché se si prenderà come riferimento, soprattutto l'anno prossimo, un periodo di tempo di 6 mesi di fatturato, è conta il fatturato dichiarato. Se tu in realtà incassavi molto di più di 18.000 euro, perderai di più questo giro sul fronte dei ristori, ma lo ritengo anche corretto, così magari si dà anche un messaggio nei confronti dell'evasione. Sì, lo so, reddito medio da discoteche 4.600 euro, gestori impianti sportivi 2.600 euro, avranno pochi soldi. Se uno ha dichiarato molto meno di quanto, avrà meno soldi di quanto in realtà avrebbe dovuto. Però torniamo a Gianni Trovati. Allora, tu hai chiarito come si integra con il recovery. Veniamo al testo, perché ha fatto molta notizia la carica di 100 micronorme, sono quasi 300 gli emendamenti approvati, molti con 100 micronorme entro i 5 milioni di euro, misure da soli 100.000 euro, il master in medicina clinica termale. Però mi sembra che queste valgano poco, anche se fanno notizie, cioè circa 250 milioni di euro. La fetta grossa se la sono preso i bonus e gli incentivi. Sì, la fetta grossa è ancora quella, e poi in particolare l'emendamento di peso legato alla creazione di un ammortizzatore sociale per le partite IVA fino a 50.000 euro, questa ha naturalmente assorbito un pezzo importante dei nuovi costi legati al passaggio parlamentare che però appunto ha fatto quasi 300 emendamenti, tolta una decina dalla CIG, quella che chiamiamo CIG per gli autonomi, alla mezza proroga del super bonus, tutto il resto è un'infinità di micro finanziamenti resi anche possibili dal fatto che l'hanno notato in pochi, quest'anno per la prima volta la manovra non ha più la spada delle clausole IVA da cancellare, sì, certo, perché le abbiamo cancellate con il decreto cosiddetto rilancio. Questo ha determinato un po', paradossalmente, un po' più di spazi di manovra del Parlamento, che però il Parlamento non sembra aver utilizzato in maniera particolarmente strategica, perché appunto ha costruito una infinità di micro misure estremamente settoriali, tra i quali una serie di incentivi fiscali così specifici che in molti casi andranno persi, perché nessuno sa, nessuno ha notizia. Il credito d'imposta di 50 euro per l'acquisto degli occhiali da vista, bisogna già sapere che c'è per utilizzarlo, cioè l'esatto contrario del riordino famoso delle detrazioni e degli sconti fiscali che dovrebbe finanziare la riforma dell'IRPEF, riforma dell'IRPEF che infatti è rinviata l'anno prossimo. Sì, sì, allora da un lato per le casse dello Stato potrebbe essere anche un meccanismo, tu fai degli emendamenti, la gente non li conosce, i soldi non vengono spesi e tu te li tieni in cassa. In realtà poi dal punto di vista politico e anche di politica economica è un assurdo, perché una norma o serve e deve essere conosciuta, un vantaggio fiscale, oppure non metterla proprio tra gli emendamenti. Ancora una domanda, Gianni Trovati, perché E ci sono appunto i 5 miliardi di risorse di bonus e incentivi e gli 8 miliardi per la riforma fiscale. Però tu hai già detto che l'IRPEF, che comprende la riforma fiscale, l'assegno unico e la stretta sugli evasori, però l'IRPEF non verrà toccata, quindi la parte fiscale al di là della fiscalità di vantaggio per il Sud, dov'è? È la parte diciamo degli autonomi? La parte fiscale di quest'anno sarà concentrata sull'avvio dell'assegno unico per i figli a partire da luglio, quello assorbe il grosso del finanziamento di quest'anno, anche se in larga parte, una parte rilevante, le risorse arriveranno dal riordino dei tanti bonus, dei vari bonus, sconti per la famiglia che sono sparsi dentro la legislazione in maniera irrazionale e inefficiente. L'idea dell'assegno unico è la stessa che c'è alla base della riforma dell'IRPEF, cioè raduniamo tutti i micro o medi sconti che sono diffusi nella legislazione in modo così confuso che molto spesso non vengono utilizzati in modo efficiente, e utilizziamoli per finanziare una misura unica. Per l'assegno unico questo si farà a partire da luglio, mentre per la riforma delle tasse bisogna aspettare tempi migliori. Sì, e quindi ecco, mi chiedono molti ascoltatori cosa vi sarà per le partite IVA, come diciamo... Per le partite IVA il cuore dell'intervento parlamentare è questa, noi la chiamiamo giornalisticamente CIG, per le partite IVA è un ammortizzatore sociale destinato ai titolari di partita IVA fino a 50.000 euro per sostenerli dalla caduta di reddito determinata. Ma è quella in cui devi dimostrare che hai avuto però nei 6 mesi un fatturato che è calato di oltre il 30%? Quello, i ristori invece ulteriori per le partite IVA arriveranno con un nuovo decreto a gennaio, con un nuovo indebitamento. Qui si raccoglie circa 1 miliardo di euro per creare anche nel mondo del lavoro autonomo un meccanismo di sostegno al reddito che non è un ristoro diretto per il fatturato perso. È una specie di cassa integrazione. Ma cos'è? Assomiglia più al bonus da 600 che poi diventeranno 1000 euro o no? È una sorta di ammortizzatore sociale per gli effetti diffusi della crisi, mentre gli effetti più puntuali, cioè la caduta del tuo fatturato per le limitazioni imposte dalle varie misure anti-Covid, arriveranno in un modo del... Ma si conosce già, Gianni, il meccanismo di questa cassa integrazione per gli autonomi? Allora, il meccanismo è sostanzialmente il riconoscimento di un sostegno economico mensile fino a 800 euro legato appunto a una platea che è determinata da una serie di parametri, il primo dei quali il fatto che il fatturato annuo sia limitato entro 50.000 euro, quindi per le piccole partite. Ah, ok, quindi basta che tu dimostri che fatturi 50.000 euro e potrai aderire a questa CIG, immagino, questa cassa integrazione per gli autonomi? Sì, i 50.000 euro sono quelli che determinano la platea, certo. Allora, intanto grazie anche a Gianni Trovati, e così chiudiamo, tra virgolette, anche i pedaggi autostradali, sì, confermo, sono congelati fino a luglio. No, Gianni, ho visto, insomma, nel milleproroghe c'è dentro di tutto. Sì, più tempo per gli esami di guida, per la patente... Questo arriva domani con il mille proroghe, ci sono tutte le proroghe classiche, le stabilizzazioni, bla bla bla, prorogano soprattutto l'operatività del commissario straordinario Arcuri all'emergenza, almeno fino al 1° di marzo, perché se no sarebbe scoperto normativamente dopo il 31 dicembre. Allora, grazie Gianni Trovati, andiamo sul traffico, no? Boadin, come dice l'ascoltatore, va bene, allora andiamo direttamente sul... Recovery Plan, prima parte diciamo dell'analisi del Recovery Plan, e poi faremo anche la borsa e infine andremo anche sulla parte più strettamente infrastrutturale. Hello. Allora, ma mi scrive un ascoltatore per una perdita in bagno, ho dovuto fare intervenire un idraulico. Ho chiesto la fattura che porta il numero di 20 nel 2020. Allora, guardate, se volete dire che ci sono professioni in cui, proprio perché non c'è una convenienza delle volte a fatturare, il nero è diffusissimo, lo so, ma non capisco, cioè la puntata non è sul nero di alcuni settori, la puntata è sull'efficacia delle misure, anche i ristori. Da questo punto di vista, poniamo il caso appunto di una ditta di idraulica che abbia denunciato fatturati molto più bassi rispetto al reale e avrà ristori molto più bassi rispetto al reale. Che posso aggiungere molto altro? Anche perché lì veniva dato fino a una certa cifra, fino a 400.000 euro, il 15% di quanto avevi perso rispetto alla media, se avevi perso più del 33% del fatturato di aprile. Adesso verrà, come ho già spiegato, la norma cambiata, per il prossimo anno si guarderà un periodo più lungo. Ma voglio dire, è chiaro che il 15% di 10.000 è una cosa, se tu invece di 10.000 fatturavi 20.000, il 15% della perdita, per cui tu vai a quantificare 10.000 euro di perdita, ti do il 15%. La perdita è sul fatturato, quello che lo Stato ti dà è netto, ripeto, per cui per fare quei 1.500 euro avresti dovuto fatturare 3.000 e 3.500. Certo che se invece tu ne guadagnavi molto di più, ma in nero, avrai un ristoro più basso. Comunque, la governance del recovery plan, adesso detta così è un inglesismo continuo, andiamo a cercare di capire il fronte politico, perché tutta la gestione del recovery, a partire da chi deve gestirlo, chi ne risponde, quant'altro, potrà partire solo a fronte di un accordo politico. E quindi Italia Viva oggi ha detto con il ministro Bellanova, è un passo in avanti avere eliminato l'ipotesi task force, quella presentata da Conte, quindi 90 manager con la capo i 6 super manager. Qui chiamo in causa invece Dino Pesole del Sole 24 Ore. Buonasera Dino. Buonasera. Buonasera. Dunque, ha detto anche lei, o oggi ha chiesto più risorse sulla sanità, sì, nel piano di recovery. La Bellanova ha detto se ci sono solo 9 miliardi bisogna riflettere sull'utilizzo dei 36 miliardi del MES Covid. Bene però che sia sparita la task force, è un passo in avanti. Anche fonti del PD dicono bene che Conte abbia fatto retromarcia sull'ipotesi task force. Questa mattina il vice ministro dell'economia Laura Castelli era ospite a Radio 24 con Simone Spezia. Ha detto sono fiduciosa che sapremo scegliere con accuratezza la struttura. Il tema di come si procede per tanti anni a lavorare su queste tante risorse è un tema importante. C'è un tema sicuramente di monitoraggio di conti e poi c'è un tema di monitoraggio sull'andamento dei progetti, e questo è importante perché i progetti devono andare bene, cioè devono essere realizzate le cose che si scriveranno dentro i progetti, non si potrà sgarrare perché altrimenti perderemo le risorse, e quindi è giusto costruirlo nella maniera migliore possibile, tanto da dover scegliere con molta accuratezza, ecco, più del solito, diciamo così, quello che deve essere la struttura. Però io sono fiduciosa. Ma guardi, una volta che i ministeri fanno un lavoro compatto, organico, no, io non penso che si possa ragionare per singoli ministeri, perché se io dico digitalizzazione penso almeno a 4 ministeri, quindi sono politiche integrate, non sono risorse che si possono usare pensando di dividerle per ministeri, vanno integrate l'una con le altre, per cui non si potrà andare a pestare i piedi a un ministero piuttosto che un altro. Bisognerà verificare che quello che si scrive nei testi dei progetti, quindi gli obiettivi veri, siano realizzati con forza, perché ripeto, è giusto controllare che siano. Sì, segnalo al vice ministro Castelli, con cui ho avuto modo di polemizzare in questi anni, che non è che gli anni sono tantissimi, perché il vice ministro sa che Dino Pesoli, i soldi del recovery vanno spesi in un tempo paradossalmente molto breve, cioè non abbiamo i 20 anni per spendere i soldi del recovery. Però la risposta te la faccio dare dopo un altro passaggio della Castelli, che invece sul super bonus, quello del 110% sugli investimenti in edilizia, abitativi, per migliorare l'efficientamento energetico, ha detto lavoriamo per prolungarlo anche grazie al recovery. questo è uno strumento che sta funzionando molto bene e che è capace di includere mai come in questo momento tantissime attività. Sulla discussione del recovery questo tema tornerà e noi stiamo lavorando per poterlo prolungare il più possibile. Allora, Dino Pesole, una chiosa su quello che ho appena detto. Il tempo non è tantissimo in realtà per utilizzare questi soldi. Allora, vanno impegnati entro il 2023, spesi entro il 2026, questo è l'orizzonte temporale che abbiamo di fronte. Ecco, pochissimo. Trattandosi di ingentissime risorse, anche perché noi stiamo parlando solo dei 209 miliardi del Recovery Fund, ma in realtà poi ce ne sono circa 100 in più che vanno iscritti al nuovo bilancio pluriennale 2021-2027, di cui 44 miliardi per i fondi di coesione, 30 per l'agricoltura, quindi è una valanga. No, ma in questo ha ragione Conte, ho visto, mi sembra che fosse lui, no, il ministro Amendola, che ha detto attenzione però, no, allora Conte, ha detto guardate che non ci sarà un piano solo sui soldi del recovery, perché dentro dobbiamo inserire anche i 40 miliardi dei fondi di coesione, che sono i classici fondi europei strutturali per le aree più svantaggiate, e tutto un insieme di altre voci. Ti ho interrotto però, scusa. No, questa è la partita. Poi ovviamente se si volesse, ma mi sembra che siamo ancora fermi alle pregiudiziali politiche ideologiche, ci sarebbero i 36-37 miliardi pure del MES. Quello che si capisce è che si arriva a una sorta di compromesso tipico della politica italiana, per cui che scompare il termine task force, compare il termine gruppo di lavoro ad hoc della maggioranza, ma diciamo che il contenuto è sostanzialmente quello, fermo restando che siamo tutti d'accordo che occorre snellire, ma faccio presente che una task force è prevista da tutti i paesi e forse questo non lo sa nessuno, anche la Commissione europea. No, lo ha ricordato oggi il ministro Amendola, ha detto guardate che ci sia una governance, quindi un gruppo di lavoro e quindi di controllo e governo, lo prevede a pagina 33 la Commissione europea, che chiede a tutti i paesi di dotarsi di una struttura che vada a monitorare i progetti del recovery plan. Il problema è come la costruisce. La Francia, ripeto, l'ha fatta molto snella con un super commissario, Bayrou, che dipende direttamente dal Ministero dell'Economia e Finanze. Però non voglio sfuggire al punto politico, perché sappiamo tutti che qui il problema non era la tecnicalità, c'era proprio un punto politico. Renzi e parte del PD non avevano digerito il fatto di una presentazione di una struttura arrivata tardi, arrivata nottetempo, dice Renzi, senza essere stati consultati, con delle voci molto molto vaghe, oltre ai famosi 17 miliardi, su cui ancora non ho capito, per la parità di genere, ma dentro c'è anche la coesione sociale e territoriale, quindi si capisce già meglio con gli investimenti. Allora, il punto politico si sta risolvendo? Il punto politico sembra di sì, perché nel momento in cui si invoca maggiore collegialità, l'intesa che sarebbe stata raggiunta oggi prevede appunto questo gruppo di lavoro ad hoc della maggioranza, poi la bozza che va in consiglio dei ministri e poi viene coinvolto il Parlamento. E tutto questo dovrebbe avvenire in tempi rapidi, così che entro gennaio, massimo febbraio, noi presentiamo l'intero pacchetto alla Commissione europea. Se il motivo era questo, certamente è stata superata l'impasse, perché mi sembra che ci sia maggiore collegialità. Se poi dietro tutto ciò c'è un maggiore coinvolgimento in termini, come dire, di presenza maggiore all'interno del governo, si stanno ipotizzando addirittura due vicepresidenti, c'è sempre il tema del rimpasto, anche se non lo vogliono chiamare così, e quindi evidentemente il tema esiste, si sta andando verso una ricomposizione della frattura sulla base ovviamente di un compromesso che però sostanzialmente lascia inalterato la questione di fondo. La questione di fondo è come far sì che questi progetti siano non solo iscritti e presentati in tempi rapidi e possibilmente debbano essere limitati, non un numero sproporzionato, e soprattutto come si fa a realizzarli. Allora, sulla prima parte oggi il ministro Amendola ha detto poco fa, guardate che abbiamo già snellito da 600 progetti, ne abbiamo 52, saranno ulteriormente razionalizzati e resi coerenti, quindi magari diventeranno, faccio vedere, 40. che non è un grande numero. Bisogna vedere certo che cosa c'è scritto dentro, perché se uno dei 40 è digitalizzare il paese, da solo ne vale 10. Però tu poni un altro tema che ancora non vedo affrontato, una corsia preferenziale di carattere normativo, nel senso che se poi i progetti devono entrare con i tempi classici dei progetti italiani, ma nel 2023 forse siamo ancora alla stazione appaltante. Esatto, quindi sì, certamente va benissimo coinvolgere il Parlamento, però poi ci vuole qualcuno che decida, quindi non è che si può immaginare che alla fine di tutto questo bailan politico si sia arrivato non più alla task force ma a una sorta di centro decisionale che non decide. Cioè, se il tema di fondo è quello di snellire al massimo le procedure, bisogna arrivare a una accelerazione. Io avevo capito una cosa però, Dino, che raggiunto l'accordo politico, diciamo così, l'intenzione fosse quella di affiancare qualcuno a Conte, cioè adesso ho capito che non piaceva la task force di prima, nemmeno a me faceva impazzire sei supermanager, 90 consulenti, però mettiamolo così, un gestore, un responsabile del recovery plan, che poi si appoggia ai ministeri, che ovviamente che sia esecutivo rispetto a quanto deciso dalla collegialità di governo, ci vuole poi, Assolutamente sì, e credo che sarebbe opportuno affidarla al Ministro dell'Economia. Cioè, il Ministro dell'Economia, così come è stato fatto in Francia, dovrebbe avere una responsabilità. Sì, però poi sotto, se vogliamo seguire l'esempio francese, sotto Gualtieri poi te devi prendere. Chiamalo come vuoi, chiamalo Rossi, Bruni, Bianchi, non mi interessa, non faccio più nomi, perché magari rischio di bruciare anche qualcuno. Però poi una persona che così identificabile nel chiamiamolo commissario, insomma nel responsabile che deve riferire al ministro, a sua volta poi alla parte collegiale, ci vuole. Assolutamente sì, anche perché consideriamo tutti che questi sono progetti, molti dei quali sono trasversali alle competenze dei ministeri. E quindi non è che possiamo decidere di darne la responsabilità a un singolo ministro. Se c'è il ministro dell'economia supervisiona, va bene, poi però ci vuole un tecnico, chiamiamolo come vogliamo, a cui affidiamo la responsabilità della gestione e del coordinamento. E del coordinamento tra i ministeri, certo. Ecco, se questo si riesce a fare, beh, allora va bene, ma cioè, adesso è ancora tutto da vedere. Per ora si è raggiunto, come dire, un'intesa politica, chiamiamola così, che ognuno si sta giocando come vuole. Vedo le dichiarazioni dei ministri renziani che dicono che è scomparsa dal tavolo da sforzo come se fosse un grande successo. In realtà, poi se non la chiamiamo task force, ma gruppo di lavoro ad hoc della maggioranza, mi sembra che sia più o meno la stessa cosa, ma questo non è il punto. Però, il punto è chi decide e con quali tempi. Chi decide e quindi chi è responsabilizzato, chi fa capo che cosa, con quali tempi, e chi decide vuol anche dire grazie a quali norme privilegiate può decidere. E sono d'accordo che poi debba essere una figura anche trasversale, perché interi progetti, pensate alla parte sanità, va sia sul fronte infrastrutture, quindi efficientamento, pensiamo alla parte digitalizzazione, non è che riguardi solo un ministero. Comunque grazie anche a Dino Pesole, voglio lasciare la linea al GR24, poi torniamo in diretta per commentare le borse e all'interno di questi progetti i progetti sulle le grandi opere infrastrutturali. Ci sono, andiamo? Vai! Di lui hanno detto: non è vero che lui è più buono, io più furbo. È appassionato e competente, è uno molto normale, è più cazzuto di me. Parla con Pardo. Storie di vita alla Moviola. 8 incontri con uomini e donne che hanno segnato il loro campo. Dal cinema alla TV, dallo sport alla cultura. Per scoprire con leggerezza il loro senso della vita. Ascoltalo in podcast su radio24.it. Una coproduzione Radio 24 e Audio Tales. Abbiamo incontrato ogni sabato pomeriggio tutti i grandi protagonisti della musica, della televisione. Si sono raccontati con grande sincerità, ci hanno fatto ridere, emozionare, commuovere. E in questi giorni li risentiremo nel meglio delle interviste di RadioTube. Come sempre con me, Marta Cagnola, ma eccezionalmente dal lunedì al venerdì alle 10.30. RadioTube di Marta Cagnola. Focus Economia. 18 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo una notizia appena battuta che l'Agenzia Europea del Farmaco ha reso noto, che analizzerà la valutazione del vaccino Moderna, verrà decisa, è attualmente in corso e potrebbe essere conclusa in una riunione straordinaria il 6 gennaio, poi un secondo incontro pubblico l'8 gennaio per informare i cittadini europei sulla valutazione, l'approvazione e il lancio di nuovi vaccini. Guardate, tutto sono tranne anche un aspetto di vaccini, fa piacere che ve ne sia anche un altro che è diverso, alcuni sostengono che sia un vaccino più vaccino quello di Moderna, ma non è sicuramente compito mio. Invece sulla Brexit, l'Unione Europea non chiuderà, è uscita adesso l'agenzia, le porte del Regno Unito, rimane pronta a negoziare anche oltre il 1 gennaio. Così il capo negoziatore dell'Unione Europea per la Brexit, Michel Barnier, il che vuol dire che si starebbe andando verso un periodo di sospensione, di transizione, o meglio, scusatemi, di quello che avevamo già individuato, per cui si allungano i tempi e nel frattempo vai in quella che potremmo chiamare una gestione ordinaria, cioè non cambia nulla, perché è chiaro che a questo punto, come hanno già chiarito i parlamentari europei, non c'è più tempo per valutare qualunque accordo dovesse arrivare, non c'è più il tempo tecnico per valutarlo nel Parlamento europeo e quindi non potrebbe essere approvato, e si va verso appunto un periodo ancora di allungamento. Questa è perlomeno la proposta europea. Vediamo cosa deciderà Johnson, che è in estrema difficoltà in questo momento, non solo per la Brexit ma anche per quello che è capitato nel paese con la variante inglese, l'accusa di un eccesso di ottimismo quando disse non più tardi di una settimana fa sarebbe inumano non consentire lo svolgimento del Natale a vari gruppi di persone. Adesso Londra è piombata e non solo Londra, è un lockdown durissimo, quindi immagino che Johnson, come ci raccontava anche ieri Leonardo Maisano, abbia tutto l'interesse politico nel trovare un accordo, perché lì il rischio che poi invece venga contestato dal suo stesso partito. Volentieri cito queste agenzie perché se ieri le borse erano calate proprio per via della variante inglese del Covid e di quello che stava capitando a livello europeo, oggi il recupero è stato quasi totale, ma Milano più 2%, quasi, ma un buon recupero. Parigi più 1,36%, Francoforte più 1,30%, Londra più 0,60%, Dow Jones meno 0,45%. Questo sembra confermare, lo dico da Andrea Fontana, lo chiedo da Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore. Buonasera Andrea. Buonasera Sebastiano. Sembra confermare l'elemento così pretestuoso nelle vendite di ieri, cioè i titoli, le borse erano molto salite, si è presa la scusa della nuova versione, della versione inglese del vaccino, le tensioni sulla Brexit per andare a vendere. Andrea. Sì, correttamente, sicuramente c'è stato un effetto iniziale di sorpresa per le notizie che erano circolate nel weekend sulla cosiddetta variante inglese, ma dall'altro canto c'era anche l'opportunità, si è aperta l'opportunità per alcuni, per molti fondi di investimento, come ha spiegato in un articolo oggi Moria Longo, proprio sui, in particolare mettendo il focus sui fondi bilanciati, andare ad aggiustare il portafoglio in vista della chiusura di fine anno, approfittando appunto di quella causa evidente per correggere. Oggi il recupero è stato quasi completo, come tu ricordavi, guidato soprattutto da banche, auto e tecnologici, non così invece a Wall Street, che poi ieri aveva recuperato, che è invece sottotono, anche perché è uscito un brutto dato sulla fiducia dei consumatori che è il peggiore degli ultimi 4 mesi e sta un po' pesando sull'andamento degli indici americani. Allora, andando poi sui singoli titoli, vedo oggi un bel recupero, recupero anche oltre quanto ceduto ieri, del gruppo Fiat, inteso come la controllante Exor, più 5,20%, ma anche, avevo visto Fiat Chrysler, eccola qua, più 2,5%. Sì, il via libera dell'Unione Europea, sì, dell'antitrust europeo alla fusione con il gruppo Peugeot fa già pensare agli azionisti al dividendo straordinario che li aspetta, e soprattutto all'efficacia poi anche della fusione che ormai è alla portata e sarà efficace dal mese di gennaio. Come ricordava qualche analista, manca ancora il via libera di qualche authority, segnatamente quello della Turchia, del Messico e del Cile, ma stiamo parlando di mercati diciamo non di primaria importanza per la fusione di questo gruppo, che quindi nel mese di gennaio vedrà la luce, e ci si aspetta tra gli azionisti Fiat questo atteso dividendo straordinario da 2,9 miliardi, corrisponderebbe circa a 1,8 euro per azione. Allora, per quello che riguarda invece altri settori, segnalo oggi Atlantia. Perché? Perché ne ho parlato in apertura con le pesantissime accuse della perizia del GIP sul ruolo di Autostrade per l'Italia nel crollo del ponte Morandi. Eppure, dico, nonostante questo, il titolo ha guadagnato bene il 3,15%. Sì, era partito negativo proprio sulle notizie che tu hai ricordato, arrivando a perdere quasi il 2%. Dopodiché il mercato ha iniziato un po' a concentrarsi sulle prospettive e soprattutto sull'attesa, visto che oggi potrebbe anche arrivare un aggiornamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti sulla tempistica, sulla modalità appunto dell'offerta per Autostrade per l'Italia, che è appunto l'operazione che dovrebbe portare a un'offerta vincolante entro la fine del mese di gennaio, che dovrebbe appunto sbloccare, almeno dal punto di vista finanziario, non certo da quello giudiziario, la partita di Atlantia con l'offerta di CDP e altri fondi che l'assisteranno per il controllo di Autostrade per l'Italia. Allora, andiamo bene invece tutto il settore bancario, che ieri era stato, assieme ad altri, ci mancherebbe, non l'unico penalizzato. Do le variazioni: oltre a XOR che ho già dato, Azimut più 3,90, Estima Creatronics più 3,80, Nex più 3,30, Banco BPM più 3,20, Enel più 2,70, Ferrari più 2,5 come Buzzi, Unicem e Telecom Italia, Italgas più 2,40 come Mediobanca, Biper più 2,20, Terna più 2% come Poste Italiane ed Era. Negativa, pochino Tenaris, meno 0,27, Diasonin meno 0,87%. Grazie anche a Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore. Andiamo sul traffico. Focus Economia. Allora, torniamo sul recovery, ma non per la parte politica di governo del recovery, ma perché, come scrive oggi Giorgio Santilli su Sole 24 Ore, una fetta importante del recovery riguarda il capitolo infrastrutture. È la missione numero 3 della bozza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quello, tra l'altro, su cui si discute di meno, nel senso che mentre c'è molta polemica sulla quantità definita bassa di soldi alla sanità, o nel capire anche la quantità bassa di soldi per il turismo e la cultura e che cosa fa, che cosa vuole dire 17 miliardi per parità di genere e coesione sociale e territoriale, la parte dell'infrastruttura che vale complessivamente alla luce mobilità, alla voce mobilità sostenibile, quasi 28 miliardi di euro, dovrebbe essere quella meno discussa. Ci sono 19 grandi opere inserite nel capitolo infrastrutture che valgono appunto quasi 28 miliardi. Giorgio Santilli è in collegamento con noi. Buonasera, Giorgio. Buonasera. Dunque, il conto, se ho ben visto, lo ha fatto il Centro Studi dell'ANCE, perché in realtà questi 28 miliardi non sono tutti soldi aggiuntivi. Cioè, chiarisco, a me interessa che le opere si facciano, però è anche giusto ricordare che non sono soldi che mettiamo in più, o meno buona parte, perché se ho ben capito 18 miliardi saranno risorse sostitutive, cioè useremo i soldi europei per non usare i soldi nazionali e non far aumentare il debito, e solo 9 miliardi saranno in più veramente? Sì, allora anzitutto i 27,7 miliardi, quasi 28, si ripartiscono in 22 miliardi di finanziamenti che riguardano opere, diciamo, già programmate, già previste e spessissimo, quasi sempre anche in corso. Penso al Terzo Valico, penso alla Verona-Brennero, penso alla Torino-Lione, alla Brescia-Verona-Padova, quindi il completamento di quel disegno che era stato lanciato sostanzialmente con la legge obiettivo nel 2001. Siamo ancora lì, purtroppo. E allora ben vengano le risorse, soprattutto di cassa, perché noi abbiamo in questi anni, su queste opere abbiamo un po' centellinato anno per anno e soprattutto avevamo poca cassa, quindi ben vengano se questi 22 miliardi, circa 22 e mezzo di opere già previsto, servono a concluderle. Dopodiché, come dicevi Sebastiano, le risorse aggiuntive sono circa 9 miliardi, 5,3 miliardi riguardano opere nuove, insomma, si va anche qui per dire, sono opere che abbiamo già sentito, però opere che finora non erano state incluse nei programmi prioritari e che ancora non hanno un vero e proprio progetto oppure devono rivedere il progetto sostanzialmente. Penso alla Genova Ventimiglia, alla Verona Brennero, all'estensione dell'alta velocità Salerno-Reggio Calabria, di cui pure molto si è parlato con questo governo, alla Roma Pescara, alla Taranto Metaponto Potenza Battipaglia. Insomma, quelle la opere Bari-Napoli nell'alta velocità è inclusa in queste opere? No, la Bari-Napoli è già in corso e quindi è inclusa nel pacchetto dei 22. Sì, okay. Esattamente. No, perché mi interessa particolarmente la Bari-Napoli, stiamo parlando di alta velocità. Quando dici la Verona-Brennero, ti riferisci alla parte, diciamo, del autostradale, non la parte ferroviaria? No, mi riferisco alla parte ferroviaria, diciamo l'ingresso al tunnel sostanzialmente, la parte italiana verso il tunnel nuovo del Brennero. Siccome tu me l'hai citato due volte, volevo capire, mi hai detto che il Brennero era presente già nelle opere, quelle da 22 miliardi, poi però me l'hai citata anche sulla Verona-Brennero, anche in quelle da 5, quelle nuove, diciamo. Sono tratti diversi. Ok. La fetta da Leone, Giorgio, visto che tu sei uno dei massimi esperti italiani di opere infrastrutturali, la fa il trasporto ferroviario o invece è equamente ripartita, diciamo così, tra ferrovie e strade? Quale, scusami, che cosa? La parte da Leone, dicevo, di questi... No, assolutamente ferrovie, perché ma questo è per rispondere a una richiesta nettissima dell'Unione Europea che... Certo. Insomma, non finanzia strade. Come sappiamo, tutto il recovery è orientato a un tema verde, green, di sostenibilità, quindi anzi sono riusciti a inserire un paio di voci stradali e autostradali, ma credo che non siano ben viste a Bruxelles. E questo è importante perché poi, come sempre ricordiamo, c'è la supervisione e l'indicazione di Bruxelles che fa fede, per cui è difficile dire che un'auto, lo dico con tutto il rispetto, ma insomma, che un'autostrada aiuti ad abbattere le emissioni, diciamo, nocive, molto più facile dirlo di un tratto ferroviario. Un'altra domanda, prego. Scusami, credo nel dibattito nostro, diciamo nel dibattito nostrano, mi verrebbe da dire, abbiamo un po' dimenticato che l'Unione Europea su questo recovery plan, cito le parole di un ministro, non è che è una legge di bilancio, deve essere tutta finalizzata esattamente a quel tema. Cioè non ci puoi mettere dentro quello che vorresti tu, magari perché ti fa comodo anche per motivi di collegio elettorale, di così. Deve avere a che fare con appunto la capacità di creare un futuro, perché si chiama Next Generation EU. So che in questo paese l'idea della generazione futura è un'idea che ha pochissimo interesse, però in Europa sì. E quindi deve essere nella Next Generation c'è la sostenibilità ambientale e c'è appunto anche le politiche di coesione. Senti Giorgio, visto che buona parte dei soldi che arriveranno verranno utilizzati per coprire voci di spesa già, come tu ricordavi, già presenti, quindi saranno 18 miliardi su 27 di risorse sostitutive, e per 22 miliardi di opere già appunto o in avanzamento o comunque già previste, come facciamo a garantire, visti i tempi italiani, che questi soldi vengano, abbiamo chiarito prima, entro il 2023 devi far partire tutti i lavori, devi utilizzare la fine dell'utilizzo di questi soldi entro il 2026? C'è un legame molto stretto fra le due cose, perché io capisco che susciti in tutti un po' di sgomento, dice ma come, abbiamo previsto un piano aggiuntivo di investimenti e adesso solo 9 su 27, un terzo soltanto, sono aggiuntivi e il resto sono risorse che già avevamo. Quindi capisco che la prima reazione in tutti, chiunque, giusta, giustissima, è un po' di sgomento. Dopodiché però bisogna fare una riflessione, perché sappiamo che in Italia ci vogliono 8 anni per aprire un cantiere, ci vogliono 15 per una grande opera per completarla. Quindi siamo totalmente fuori target se noi pensiamo di finanziare solo opere aggiuntive. A parte che queste opere aggiuntive, potrebbe anche essere un non senso andarci a cercare delle opere aggiuntive quando ancora la rete, pezzi fondamentali della rete dell'alta velocità per esempio non sono stati ultimati. Quindi io, nonostante lo sgomento che condivido, però penso anche che questa sia una scelta razionale e di buon senso. Cioè, fammi vedere se ho capito, tu dici certo che uno dice cavolo, dovremmo sfruttare questi soldi per immaginare altre infrastrutture, ma tu mi dici guardate che siccome poi il tema è che vanno tutte utilizzate, oltre che progettate, ma utilizzate entro il 2026, se le mettiamo su opere che sono già cantierate, diciamo, per farmi capire, quindi i lavori sono già iniziati o stanno per iniziare o sono già in avanzamento, tagliamo fuori tutto il tempo che ci metteremo in questo paese a far partire l'opera, ho capito bene? Esattamente, esatto. E sarebbe un bel risultato, credo, per il paese, fermo restando che altre opere aggiuntive si possono immaginare e cominciare a progettare, però sarebbe un bel risultato se veramente sotto la pressione dell'Unione Europea noi al 2026 avessimo veramente completato quel disegno che, ripeto, sta lì da vent'anni, certo. E passa, insomma. Quello dell'alta velocità, della T famosa di Moretti, no? Che devo dirti, dal punto di vista infrastrutturale, è una delle poche cose in cui questo paese ha fatto dei balzi in avanti negli ultimi 15 anni, nel senso che chi si ricorda cos'era la rete ferroviaria prima dell'arrivo dell'alta velocità sa bene di che cosa parlo, il che non vuol dire che non vi siano molti problemi nella rete di trasporto locale. Un'ultima domanda, Giorgio, però qui stiamo ragionando di come usare i soldi del recovery. A me convince quello che hai detto, cioè ho capito, invece che immaginare un ponte sullo stretto, non voglio tornare sulla polemica, andiamo a utilizzare questi soldi per chiudere le opere che abbiamo dopo anni e anni e anni e anni siamo riusciti a far partire, almeno le chiudiamo così. Questo però non vuol dire che il governo con la sua bilancio, cioè questi sono i soldi europei, non possa anche immaginare altre opere, penso per esempio a tutti i raccordi autostradali gronde che non rientrano direttamente nel recovery. Assolutamente, va anche detto che nella legge di bilancio il cosiddetto fondo investimenti, che è un fondo pluriennale in 15 anni, però c'ha altri 50 miliardi di investimenti, di cui una parte anche di strade. Ovviamente ho detto prima che mi sembrava una scelta di buonsenso e razionale, dico anche che ovviamente il buon equilibrio si trova fra le risorse aggiuntive e quelle sostitutive, insomma, non so se 1-2 è un rapporto giusto, certamente ci vogliono quelle per completare le opere e dovremmo mettere anche in campo però progetti nuovi, questo senz'altro, sarebbe sì. Grave se ci fermassimo qui. No, anche perché, ripeto per la terza volta, l'Europa ti finanzia l'autostrada? No, ti finanzia la ferrovia, quello sì, quello sicuramente, nel ragionamento di sostenibilità economica. Dopodiché puoi anche tu aggiungere come manovra tua, e ci sono appunto, c'è il fondo infrastrutturale, altri soldi. Cioè non è che questo escluda di poter intervenire anche sulla rete autostradale, per farmi capire ancora di più. No, assolutamente. E stiamo parlando solo delle grandi opere, perché poi sappiamo che c'era anche la lista delle opere da commissariare, le dighe e quant'altro. Non stiamo parlando dell'edilizia scolastica, lo dico chi mi scrive, cioè questa era la parte proprio infrastrutture. Grazie anche a Giorgio Santilli del Sole 24 Ore. È veramente tutto per questa puntata. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata.